Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, la ricerca un po' di motivazione in questo periodo in cui, insomma, il calendario delle gare nazionali e internazionali è vuoto, insomma, come sappiamo purtroppo, argomento che affronteremo qui a Personal Best sicuramente nelle prossime settimane. Ci siamo imbattuti, ci siamo fatti anche un po' ispirare nei giorni scorsi da un bellissimo video motivazionale, diciamo così, sulla corsa, video in cui si vede un runner che corre da Los Angeles alla montagna e dalla montagna al deserto, e poi c'è una parte che non si vede che è quella dal deserto a Radio 24, infatti quel runner è Michele Graglia, che oggi è in collegamento qui con noi. Benvenuto Michele. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per avermi qui quest'oggi. Come stai Michele? Ma direi, diciamo, bene, a tutto sommato, sicuramente grato di essere in salute, quindi questo è già tanto in questo periodo. Ma tu in questo momento sei a Los Angeles? Mi trovo nel sud della California, in una località di montagna che si chiama Big Bear. Sono scappato dalla città per ovvi motivi e ora ci si gode un pochettino di aria fresca qui su nelle montagne. E qual è la situazione lì? Ma la situazione è stata abbastanza paradossale per noi, parlo per me e mia moglie, perché diciamo quando questa tempesta del coronavirus è arrivata, noi ci trovavamo a Bali. Stavamo sviluppando un progetto giù e è arrivata così di sorpresa un'email dal governo degli Stati Uniti che diceva praticamente a tutti i cittadini di rientrare immediatamente o di prepararsi a rimanere all'estero a tempo indefinito. Quindi noi abbiamo preso il primo volo di rientro, arrivati a Los Angeles, situazione apocalittica, quindi è stato uno shock totale. E poi devo dire che appunto l'escalation della crisi qua negli Stati Uniti è stata massiccia, infatti è stata diciamo un pochettino la decisione, è partita da lì la decisione appunto di spostarsi e togliersi dalla parte critica. Sì, sì, sì, sì. Ma tu puoi correre in questo momento? In questo momento sì, da circa un paio di settimane qui hanno riaperto i sentieri in alcuni posti, quindi ho avuto la fortuna di poter adesso in questi giorni di poter riprendere gli allenamenti o comunque di poter godere dei sentieri delle montagne, ed è un grande privilegio questo, devo dire. Infatti Michele, nel frattempo, per quanto riguarda, visto che tu sei negli Stati Uniti, per quanto riguarda le maratone più importanti come Boston, che dal 20 aprile è stata spostata al 14 settembre, poi c'è Chicago in calendario l'11 ottobre e New York con la 50ª edizione il 1 novembre, stanno insomma monitorando un po' la situazione coronavirus per capire anche cosa ne sarà di loro e delle decine di migliaia di maratonetti. Si parla di 150.000 persone che attendono, più o meno fiduciose, diciamo così. Tu hai mai corso una maratona americana? Io non ho mai corso una maratona, punto. Devo ancora graduarmi alla maratona. Sì, ho fatto un salto, diciamo, a piedi pari una volta scoperta questa passione per le lunghe distanze, ero incuriosito proprio da questo concetto di ultra, e quindi non mi sono mai cimentato in una maratona nei classici 42 km, stato sempre oltre. È stato subito sul difficile. Infatti, giusto per dare due elementi del tuo curriculum di run, no? Tu hai vinto un'edizione della Badwater Ultra Marathon nella Valle della Morte e la Yukon Arctic 100, e sono due gare agli antipodi, diciamo, no? Una caldissima e l'altra freddissima. Che gare sono? Ma diciamo, questo progetto è nato alla fine del 2015, inizio 2016, dopo diversi anni di esperienze, di gare in giro per il mondo. E appunto questo progetto è nato dall'idea di confrontarmi con la natura più estrema, che è poi un pochettino quello che mi affascina di più. E quindi perché non farlo nei due posti più estremi del mondo? Quindi ho cercato le due gare considerate le più dure, ecco. E nel 2016, a febbraio del 2016, mi sono presentato appunto nello Yukon Territory, che è nel nord del Canada, proprio nel circolo polare artico, con temperature che andavano fino a meno 40 gradi, e poi 5 mesi dopo ho partecipato alla mia prima edizione della Badwater, dove nel luglio del 2016 ho corso questi 217 km nella Valle della Morte, che è considerato il posto più caldo del mondo, con temperature ben oltre 50 gradi, quindi in 5 mesi da meno 40 a più 50. Okay. Michele, ma quando è che hai iniziato a correre? Cioè, come hai fatto? Qual è la tua storia? Perché sono affascinata da questo. Non hai mai fatto una maratona e hai iniziato subito a fare gare lunghe. Come ci sei arrivato? Ma devo fare una premessa, che non ne parlo quasi mai, o comunque non è qualcosa di... Che esce molto spesso. Comunque, diciamo, ho sempre avuto una grande passione per la corsa, per l'atletica, c'è sempre stata una forte chiamata da questa disciplina. Tu facevi gli ostacoli. E io, esatto, stavo per aprire proprio quel capitolo lì, io quando ero, diciamo, cos'era, medie, primi anni di superiore, quindi parliamo 13-14 anni, ho fatto un paio di 2-3 stagioni di atletica, inizialmente facendo i 1000 campestri, poi mi sono... diciamo trasformato in ostacolista dai 60 ai 100, 110, 300, 400, dipende poi dalle categorie, e sono stati anni bellissimi. Oltretutto andavo anche abbastanza bene, ho avuto un terzo posto ai nazionali, un secondo posto ai giochi del Mediterraneo, quindi diciamo era proprio preso da questa cosa. Poi purtroppo, non avendo un sistema di supporto adatto, credo anche a stimolare le motivazioni e l'ispirazione di un ragazzo giovane, perché chiaramente, sai, quando maturi, esplori, diciamo, la tua testa, le motivazioni, e hai una spinta interiore che ti permette anche di far fronte a ore e ore, giornate passate da solo a allenarti, e in questo momento personalmente l'ho rivalutato come un qualcosa di, cioè come un'opportunità per crescere, ma quando hai 13-14 anni ti vuoi divertire. E io avevo tutti gli amici che giocavano a calcio, a basket, eccetera, io ero l'unico che girava da solo nella pista d'atletica, quindi sono arrivato alla conclusione che anch'io vado a giocare a calcio, quindi ho mollato l'atletica, e poi la corsa l'ho riscoperta a 27 anni, quindi bel salto. Tu infatti hai iniziato, diciamo, hai ripreso a correre non per buttare giù la pancia, come fanno molti, diciamo così, perché tu facevi fotomodello, cioè facevi il modello, insomma, lavoravi nel campo della moda, per cui insomma avevi una vita che era all'opposto rispetto al sacrificio che si fa nel preparare magari un ultramaratona, insomma. Era una vita, tra virgolette, possiamo dire agiata, insomma, lontana dalla fatica. Senza dubbio, no, ero chiaramente... dedicato ad allenamenti, eccetera, ma completamente diverso. Chiaramente, lavorando nel mondo della moda, avevo una struttura più pesante, più muscolosa, diciamo così, comunque dedicato ad allenamenti, eccetera. Poi è arrivata così, sono tornato quasi è stata quasi una ricerca per tornare alle mie radici, per tornare a quello che era la mia grande passione, che in un certo modo è sempre stata la natura e la corsa. E quindi l'ultramaratona è stata un'occasione per mettere i due mondi insieme e poter vivere esperienze straordinarie. Quindi da un giorno all'altro hai deciso poi di buttarti in queste gare, così? Sì, assolutamente. E sotto la moda? Beh, allora, è stato un passaggio che chiaramente ha richiesto un paio d'anni prima di potersi realizzare. Comunque... parliamo del dicembre 2010, la fine del intorno alle vacanze di Natale, ho scoperto per puro caso il libro di Dean Karnazes, Ultramarathon Man, che immagino molti di voi conosciate. E davvero quel libro mi ha, aperto gli occhi a un mondo che non conoscevo, e davvero mi ha catapultato in un mondo completamente nuovo, fatto appunto di sfide personali, fatto di sfide contro la natura e contro se stessi. Quindi davvero mi apriva gli occhi a un qualcosa che non conoscevo. Chiaramente conosciamo tutti la maratona, ma che cos'è quest'ultra? Sì. E poi, diciamo, in secondo luogo, quello che mi ha colpito di quel libro è stato proprio il fatto che mi ritrovavo letteralmente in ogni parola che l'autore diceva. Che arrivavamo da percorsi di vita diversi, perché lui era un businessman di successo, io lavoravo nel mondo della moda, ma eravamo arrivati entrambi alla stessa conclusione. E quella è che il successo materialistico non necessariamente si traduce in felicità, o comunque non necessariamente soddisfazione personale, felicità, ma proprio anche scopo e piacere di vivere, no? Cioè, e quindi tutte cose sono state la ricetta che piano piano mi hanno portato dal mondo della moda verso il mondo della corsa, e intorno al 2014, quindi parliamo di 2-3 anni dopo, sono riuscito a fare il grande passo, lasciare la moda e potermi dedicare a pieno tempo all'ultramaratona. Ecco, parlando di ultramaratona, insomma, quelle che hai fatto tu con temperature, insomma, altissime o comunque freddo, meno 40 così, che tipo di gare sono e quanta gente partecipa a queste gare? Ma allora, nello Yukon eravamo circa un'ottantina, persone un pochettino dovunque. Quindi pochi pazzi, insomma. relativamente pochi pazzi, sì, sì. Lì eravamo circa un'ottantina e nella Badwater invece il limite è 100 corridori ogni anno. Okay. E loro ricevono migliaia di richieste ogni edizione, però appunto il format della gara viene, cioè è diciamo è tenuto a 100 persone, 100 atleti selezionati. Okay. Quindi bisogna avere determinati requisiti, presentare il curriculum, presentare proprio una serie di domande e risposte. Bisogna quasi, c'è una richiesta molto particolare, molto filosofica come cosa, non è una questione di punti, diciamo. Pensa, devi spiegare, Silvio, quanto sei matto, insomma, per fare cose. Sì. Esatto, quello è il requisito principale. È il requisito principale. Ma come si preparano gare di questo tipo? Ma chiaramente ogni gara richiede la sua preparazione specifica, le sue specificità, e cerco sempre di riprodurre il più possibile quello che vado ad affrontare. Quindi se si parla di montagne, di trail, cerco di fare sempre salite e discese importanti. Per il freddo chiaramente qua nel sud della California non è ideale, però nonostante questo devo dire che si ha la fortuna di avere anche di molti ambienti diversi qui. Quindi noi passiamo dalla costa, che è chiaramente molto conosciuta, Santa Monica, Malibu, le colline, bellissimo, ma alle spalle si hanno deserti, si hanno alte montagne. Io più o meno da un'ora da casa ho montagne che vanno oltre i 3000 metri, quindi in inverno andavo a correre lì, giusto per abituarmi alle temperature, che però chiaramente arrivano magari a meno 5, meno 10, diciamo, un adattamento che devi fare. Però devo dire una cosa, nel freddo la questione importante sicuramente è saperlo gestire, ma è una questione proprio di preparazione precedente alla gara, quindi trovare il vestiario adatto, le scarpe, okay, l'attrezzatura giusta, insomma. Sì. Sì, perché quelle temperature, sia che siano caldissime o freddissime, non le puoi combattere. Sì. E quindi è solo una questione di, nel freddo, strategie su come vestirsi a modo per poter superare quelle difficoltà. Al caldo, chiaramente, ho fatto tantissime sessioni di sauna. Mi sono allenato tutta la primavera e inizio estate con Kiwi, giacconi, cappelli, guanti. Infatti ero a giugno, luglio, in luglio qui a Los Angeles, correvo vestito come l'omino Michelin e tutti che mi guardavano strano. E poi tantissime sessioni di sauna, quindi sauna, esercizi in sauna, eccetera, eccetera. Però anche lì non è una, cioè un palliativo, perché sì, condizioni il corpo a sostenere determinate temperature, ma quando arrivi, come quando siamo arrivati noi nel 2018, la mia seconda edizione della Badwater, siamo arrivati a quasi 54 gradi. Ecco. Quindi, ma non si scioglieva la suola delle scarpe? Perché mi ha raccontato che è possibile una cosa del genere, vero? Assolutamente, si cuociono le uova per strada, se si volesse. Ecco. Sì, è consigliato appunto anche nel meeting pre-gara di correre sulla striscia bianca al lato della strada, proprio per mantenere evitare la scarpe da sciogliersi. E qui appunto dico, ritorno al discorso della strategia per mantenere la temperatura del core, come si dice, la temperatura interna più fresca possibile. Quindi tantissimo ghiaccio, tantissima acqua, tantissimi cappellini con ghiaccio e bandane, continuamente bagnato, proprio per combattere questa siccità che è davvero terrificante. Ma Michele, ma stavi preparando qualcosa adesso? Cioè, cosa fai? Come ti alleni in questo momento? In questo momento, diciamo, ho attraversato un periodo, credo un pochettino come tutti, di crisi psicologica, emotiva, poi ho accettato la situazione perché chiaramente siamo arrivati tutti a quella stessa conclusione. Sì. In questo momento nulla, quindi all'inizio è stato chiaramente una grande batosta, perché avevo parecchi progetti già pronti, sarei dovuto essere in Italia in questo periodo, avrei corso la Lavaredo proprio a giugno in preparazione per la Ultra, che è una gara di 330 km nel nord dell'India, al confine col Nepal, ed è la gara, diciamo, più in alto del mondo, a tre passi oltre i 5.500 metri. Beh, è considerata anche questa una delle gare più estreme del mondo. Hai segnato, Silvio? Hai segnato? Sì. Questa che la facciamo anche. Andiamo a fare allora il prossimo anno. Dai. Dai, è andata. C'è anche un problema lì di gestione della respirazione a 5.000 e passamento. Assolutamente, beh, ma queste sono un pochettino le sfide che mi emozionano, le sfide che mi affascinano e che mi richiamano. Quindi, beh, in questo periodo sto vivendo a 2.200 metri di altitudine, che vabbè, non è. È buono, ma chiaramente non si parla, non sono le Himalaya, però sto facendo appunto allenamenti mirati. E poi tutto anche in preparazione per la grande attraversata di quest'anno, in autunno sarei andato in Antartide per attraversare appunto il continente in solitario. Ah, quindi più una spedizione questa che non solo una gara in solitario. Assolutamente, sì. Sarebbe stato il terzo capitolo di questo grande progetto che ho iniziato appunto nel 2018, finita la Bedouin. Dopo il successo alla Bedwater ho lanciato questo progetto di attraversare i quattro grandi deserti, i quattro deserti più estremi del mondo in quattro anni, e quindi 2018 ho fatto l'Atacama in Cile, 2019, quindi pochi mesi, 6 mesi fa ero in Mongolia, ho attraversato il Gobi, quest'anno sarebbe stato l'ora per l'Antartide, il prossimo anno il grande progetto sarebbe stato il Sahara. Ah, wow. Quindi è qualcosa che ora è in cantiere, vedremo cosa succederà. Mi fai venire in mente Stefano Gregoretti, che insomma sulla falsa riga tua, anche lui è uno spedizioniere, uno che fa avventure di questo tipo. Sì, assolutamente, ho intrapreso questo percorso che è ispirato da quello che è il suo compagno di viaggio, Ray Saab, quel canadese che ha fatto diverse spedizioni di questo genere, e per me è sempre stato, diciamo, il vero fascino della corsa e dell'esplorazione per me risiede nelle spedizioni, non nelle gare, perché trascendi la competizione e vivi l'avventura per quello che è. E noi qua ci mancano un po' le mezze maratone per avere un po' di motivazione per allenarci, poi in realtà invitiamo te che ci racconti di distanze infinite praticamente. Prima mi parlavi di 330 km, con 330 km mi si accende una lampadina, perché Ivana, che è qui, che è peggio di te, più pazza di te, quest'anno vorrebbe fare insomma il Tour de Jean, no? 330 km, le alte vie della Val d'Aosta, 24.000 metri di dislivello positivo. Se non ricordo male, tu lì un piede ce l'hai messo, però com'è andata? Ma allora, il piede ce l'ho messo nel 2016, finita la mia prima Bedwater, quindi parliamo di fine luglio, mi sento con un caro amico che è Ivan Parasacco, che oltretutto è uno dei due speaker del Tor, proprio di Courmayeur, che è un caro amico, e mi dice appunto congratulazioni per aver finito la Bedwater, bla bla bla, e mi dice ora ti aspettiamo al Tor. E io ho detto, ma... vediamo, gli ho detto guarda, sarò in Italia il prossimo mese, magari vengo a vedere la gara. Lui mi fa no guarda, se vuoi ti trovo un pettorale, ecco. E allora come, ho detto come si fa a dire di no? Come si fa a dire di no? Ho una settimana libera, perché chiaramente sai, la Bedwater parli di 217 km in un deserto, e quindi sono proprio preparazioni completamente diverse, quasi per un ciclista di strada dover andare a fare una gara di mountain bike, oltretutto la più estrema che ci sia, quindi mi sono ritrovato alla partenza, diciamo, chiaramente motivato, preparato per la sfida davanti a me, però sapevo già in partenza di non essere al top della forma per quella che fosse la gara. Comunque sia, diciamo, stavo andando piuttosto bene, se non che proprio nel mezzo della notte, nel passo prima dello Zone, che ora mi sfugge il nome, quindi uno dei tre passi più alti del percorso, proprio sulla cima c'è una tempesta, non si vede bene, c'è tanta nebbia, e ci sono questi tornantini molto stretti, e io sbaglio passo, esco dal tornante e inizio a ruzzolare giù dal dirupo. Per fortuna che avevo i bastoncini che hanno fermato la mia caduta, li ho spezzati sul mio costato, infatti ho rotto tre costole. Bene. Mi sono praticamente ritirato su, e zoppicando sono arrivato giù a Rennes Notre Dame, se non sbaglio. Sì. È uno dei checkpoint. Tra una decisione e l'altra, mi sono dovuto fermare. Ed è finita lì, diciamo. Quindi ho un conto in sospeso che spero di... Col Tor. Comunque il Tor è una delle gare a cui, diciamo, tengo di più, anche se purtroppo non ho ancora fatto tutto, ma è sicuramente nella mia bucket list. È lì. Vabbè, allora la facciamo insieme quest'anno. Guarda, ci sto facendo un pensierino, perché in questo momento, non essendoci altre gare, quasi quasi. Dai, io e te sì. Eccomi, mi coinvolge sempre. E, Michele, giusto per chiudere, prima accennavi alla Mongolia, no? Tu hai attraversato lo scorso anno il deserto dei Gobi per intero, 1700 chilometri in 23 giorni e rotti in qualche modo. Sì, sei entrato nel Guinness dei primati? No, il Guinness dei primati è stato autenticato per la traversata dell'Atacama, okay. Quindi per la traversata del 2018, dove ho attraversato appunto quello che è il deserto più arido della Terra, davvero un territorio incredibile, dove non ci sono neanche non ci sono neanche insetti o cactus, semplicemente solo tu, e sembra di essere su Marte. 1000 chilometri di nulla, lì li ho attraversati in 8 giorni e mezzo, quindi è stata abbastanza veloce come attraversata, e questo è stato appunto autenticato con certificato di record. E quello invece Mongolia, stiamo aspettando la conferma, quindi. Ah, ok. Ma in questi casi tu sei da solo o c'è un team di supporto? No, per queste due spedizioni ho avuto un team che mi ha seguito a tutto tondo, quindi avevamo una logistica locale, guida, okay, eccetera, con mezzi, e poi avevo un team speciale che è arrivato direttamente dall'Italia, composto dal fotografo Dino Bonelli, dal dottore Lorenzo Lanzillotta e dal video operatore Michele De Lucis, che sono stati tre compagni di viaggio straordinari che, diciamo, hanno reso l'esperienza, l'avventura ancora più bella. Eh sì, poi il team fa tanto in questa spedizione. Penso che faccia, almeno io lo dico sempre, il 50% poi dall'avventura la fa il team. Assolutamente, uno perché chiaramente non potresti permetterti di fare queste cose da solo, non sarebbe possibile assolutamente. Immaginati le tonnellate di acqua e cibo e provviste eccetera eccetera che portano dietro, ma poi anche proprio da un punto di vista emotivo, perché chiaramente in questi tipi di sfide hanno davvero un grande peso a livello psicologico e emotivo, e quindi avere la positività, una mente fresca che ti supporti è davvero quello che poi cambia le carte in tavola. Quindi sei pazzo ma coscienzioso in qualche modo, dai. Perché c'è sono un fatto che l'ho fatto un po'. Michele, chiudiamo come abbiamo aperto, con quel video che accennavamo appunto all'inizio, no? Di cui troverete, tra l'altro, gli ascoltatori troveranno il link nella descrizione della puntata di oggi sul sito di radio24.it. Dove l'avete girato? Ma allora, questo corto prodotto dalla Sportiva, appunto, sembrerebbe fatto nel Sahara, invece è un paio d'ore da Los Angeles, si parla del sud della California. Questa zona che è chiamata Salton Sea, che è una depressione, un lago essiccato proprio nel sud della California, e dà queste estensioni meravigliose che oltretutto presenta diversità incredibile, con montagne che arrivano oltre 2.500-3.000 metri, e poi queste piane con queste dune di sabbia dorate, è un posto meraviglioso. Dal video infatti si vede bellissimo. Bellissimo. Sono due scene bellissime, quella corsa sulla ferrovia abbandonata. Sì. Se mai verrò a Los Angeles mi dovrei portare a correre lì, perché è veramente un pezzo veramente meraviglioso. E poi quella corsa sul deserto, su quelle dune. Sì. Cosa si prova a correre nel deserto? È libertà pura. Per me la corsa rappresenta il modo più semplice e quasi primordiale, cioè ci riporta alla nostra vera natura. E quindi poter esplorare questi posti meravigliosi con solo le proprie gambe, il proprio cuore, la propria testa, per me rappresenta la libertà assoluta. Bellissimo. Grazie mille a Michele Graglia. È stato un grandissimo piacere, grazie a voi. Allora ci vediamo a Los Angeles. Ci vediamo al Tor. Tor, è vero, sì. Un saluto a tutti gli ascoltatori anche. E anche per oggi è tutto, noi ci risentiamo domenica prossima, sempre alle 6.30, alle 16.15, poi quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona giornata a tutti, buona domenica. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.